questo fenomeno che potete scritto. La luce non è venuta a sostituire, dove si è scritto, e la luce è venuta a sostituire, dove Thank you.